Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, buon primo maggio naturalmente. Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Solita corsa scudetto divisa in due tempi, il primo tra una cinquantina di minuti con la Roma in campo a Parma. A proposito, l'ultima ora dice che giocherà Totti dal primo minuto e non Toni, che va in panchina, a differenza di quanto si era detto fino a questo momento. Gioca poi Brighi per Pizzarro, che ha qualche problema ad un ginocchio. Sui preview della Serie A torneremo naturalmente più tardi con tutte le notizie su questo sabato del villaggio, ma prima volevo invece tornare anche insieme a voi, naturalmente 800 24 00 24 per intervenire. Volevo tornare sulla festa dell'Inter, sul mercoledì di Champions League, su questa finale aspettata così a lungo, attesa così a lungo, e volevo condividere con un professionista vero alcune impressioni tecniche e tattiche che ho avuto sull'Inter di Barcellona, che a me per alcuni aspetti è sembrata davvero mostruosa. Abbiamo perso anche troppo tempo con i dettagli, da quelli ambientali a quelli televisivi, alla telecronaca di Caressa, insomma tutto contorno, ma al centro del quadro dice che l'Inter appunto ha giocato una partita per alcuni aspetti, ripeto, perfetta. Saluto e ringrazio Mario Beretta, buon pomeriggio. Buonasera. Mario, grazie. Buonasera a voi. Io ho avuto alcune impressioni tecniche e tattiche che volevo appunto condividere con lei, che se ne sa infinitamente più di me. Ho avuto l'impressione di un Inter così visivamente che ha stretto quel campo, che ha chiuso le fasce, che ha consegnato la palla al Barcellona e ha detto: ve la lasciamo ma fate quello che vogliamo noi. Sì, è vero, paradossalmente quello che ha detto Mourinho anche l'altro giorno, che ha detto: noi non volevamo la palla, e chiaramente lui lo fa in modo molto ironico e provocatorio, in modo provocatorio, però era realmente questo, perché all'Inter non interessava fare gol fondamentalmente, se fosse stata l'occasione l'avrebbe fatto, interessava non prenderlo, a maggior ragione quando sono rimasti 10, se ricordiamo bene la partita, ti rimporta uno di Messi, sì. E basta. Di Giulio Cesar non ricordo parate importanti, vabbè, c'è stata un'occasione di testa alla fine, si può concedere, però un'occasione gol, diciamo vera, e un tiro di Messi, peraltro non irresistibile. Esatto, quindi al Barcellona in superiorità numerica. Certo. Quindi vuol dire aver fatto sicuramente una grande partita, aver fatto in 10 comunque quello che deve fare una squadra che deve difendere il 3-1, perché certo, poi dimentichiamo che la Coppa è una cosa e il campionato è un'altra, lì poi potete anche perdere, come è successo, certo. Quindi secondo me sono stati bravissimi. Certo, anche perché il calcio moderno è... qualcuno ha parlato secondo me impropriamente di catenaccio, perché lei, come lei dice giustamente, il catenaccio presuppone una serie di miracoli del portiere. In questo caso io parlerei più di grande occupazione degli spazi e di una partita giocata con una concentrazione, ed è questo l'aspetto che più mi ha sorpreso nei giocatori dell'Inter, con una concentrazione per 95 minuti mostruosa. Sì, assolutamente, grandissima attenzione, grandissima concentrazione, a volte anche difendere con una linea 6, non a 4, quando c'era bisogno, giustamente anche, ma poi voglio dire, non è che catenaccio sia... E adesso sembra che uno che dice catenaccio sia una bestemmia, un insulto. Sì, ma sì, sì. Ragazzi, noi, le nostre squadre hanno vinto le Coppe dei Campioni con catenaccio, quindi da Rocco e Herrera, quindi voglio dire, non è che sia così. Non è così vietato, non è che sia vietato dalla legge. Assolutamente, voglio dire, dall'amor di Dio, ci mancherebbe, ma al di là di questo, comunque, non dimenticare che l'Inter ha giocato, è vero, in 10 difendendo, ma comunque sempre con due attaccanti dentro più Schneider, sì. Quindi non propriamente gente che è abituata a difendere. Questo è un altro aspetto interessante, perché ha lasciato in campo gli attaccanti, è vero, però gli ha fatto fare i difensori, e questo vuol dire difensori, perché magari anche una miglior gestione della palla, certo, quindi quel minimo per poter far ricettare il tempo necessario per poter prendere un altro assalto. Certo. Veramente del Barcellona. Ma io da allenatore le chiedo: vuol dire avere in mano completamente il gruppo? Vuol dire fidarsi completamente di questi giocatori? Sì. E avere la fiducia di questi giocatori? Esatto, viceversa, i giocatori si fidano ciecamente del loro allenatore. Questo si vede ormai da tempo. Io lo dissi ancora un mese fa, di quest'anno l'Inter, poi per l'amore di Dio, il calcio è una finale, può capitare di tutto e di più, però è l'anno per poter vincere la Coppa perché è squadra nel vero senso della parola, di tutto e per tutto, tra l'staff tecnico e... Certo, credo anche, non so se sei d'accordo, che le partite che hanno giocato Eto'o e Milito, che sono due superstar internazionali, Eto'o lo è già da un pezzo, Milito lo è diventato, è stato consacrato da questa stagione, la partita che hanno giocato questi due giocatori siano state una lezione anche per chi, ed è chiaro il riferimento a Balotelli, ha atteggiamenti in campo qualche volta da vecchia Inter, se me lo consente. Beh, che Eto'o e Milito stanno facendo una parte di Pandev, hanno giocato, chiaramente non a Barcellona. Io ero a San Siro a vedere l'andata e vedere i giocatori sacrificarsi in quel modo vuol dire essere, come diciamo prima, completamente al 100% dediti alla causa, assolutamente, e voglio dire non qualsiasi un giocatore qualsiasi, insomma sappiamo benissimo, Milito stesso, sì, giocatori. Campioni, che però sì, si sacrificano, si vanno a fare, da cui bisogna prendere anche esempio, indubbiamente. Io adesso ho il traffico da mandare, le chiedo ancora un minuto dopo il traffico per invece inquadrare un'altra situazione che mi ha colpito molto in questi giorni e che è la ribellione, la rivolta di Leonardo, questa fino al rapporto così brusca tra Leonardo e Silvio Berlusconi, che pure lavorano insieme da 13 anni, quindi non da ieri. Oggi si è scoperto che sono caratterialmente incompatibile. Io a Mario Beretta volevo chiedere, un allenatore delle cui opinioni ho estremo rispetto, volevo chiedere cosa ha pensato di fronte alle parole, nel sentire le parole di Leonardo, che ha reagito in quel modo alle critiche più o meno dirette, più o meno velate, più o meno ufficiali, ma comunque io ritengo profondamente ingiuste che gli sono arrivate dall'alto. Cosa ha pensato lei? Ma innanzitutto che se c'era bisogno, ma non ce n'era bisogno perché lo si vedeva quando era in campo e anche fuori dal campo, di una persona, di un professionista con grande personalità, che comunque ha sempre risposto in modo con grande signorilità, senza fare grandi dei proclami, essere duro in modo particolare, e che io apprezzerei nel senso che se il rapporto è franco e lui si dice quello che ci si pensa realmente, è un momento di crescita, non è un momento di, deve essere un momento anche a maggior ragione di crescita, non di distacco. Sì. Secondo il mio modesto parere. Sì. Quindi uno dice la propria opinione, l'ha detta Berlusconi, ha torto a ragione, l'ha detta Leonardo, ha torto a ragione, hanno detto le cose che pensano, e da lì dovrebbe partire un rapporto ancora più solido, secondo il mio parere. Certo. Ha avuto qualche problema simile nella sua esperienza, qualche ingerenza così diretta dei presidenti? No, puoi dire di no. No. Sicuramente sono stato abbastanza fortunato. Ma le chiedo ancora questo, il Milan poteva fare di più? Questo Milan poteva fare più di quello che ha fatto? Il Milan Leonardo ha fatto un grosso lavoro. Per me ha fatto un grosso lavoro, teniamo conto anche dei tantissimi infortuni che ci sono stati, di tanti ragazzi che non sono diventati titolari, vedi Antonini, vedi Abate, che magari all'inizio non erano considerati. Secondo me ha fatto un grandissimo lavoro e essendo anche arrivato in certi momenti a lottare addirittura di vicino a lì con l'Inter per lo scudetto, vuol dire essere andati forse più in là di quelle che erano le più rose aspettative. Perfettamente d'accordo, parola per parola. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie davvero a Mario Beretta. Adesso vorrei cominciare a parlare con gli ascoltatori di tutti questi temi e anche di altri, perché insomma è stata anche la settimana della Juventus con una nuova presidenza, con un nome importante, cioè quello di Andrea Agnelli, e credo sia, al di là del nome, un segnale. La proprietà non lascia, anzi forse raddoppia, ho come l'impressione. Serviranno molti soldi per la ricostruzione di questa squadra. E questo è il segnale che la proprietà intende mettere questi soldi. Francamente non me l'aspettavo. Adesso vediamo che succede, chi arriva in panchina. Il nome di Benitez mi sembra piuttosto scontato, però abbiamo detto molte volte come Benitez non è un semplice allenatore. Benitez è parte di un gruppo di lavoro che richiede grandi investimenti. Evidentemente la proprietà della Juventus ha intenzione di mettere sul piatto questi grandi investimenti. 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666. Poi vi faccio sentire anche le voci di ieri e di oggi, a cominciare da quelle di Leonardo, poi Della Valle, di questo strappo, altro argomento interessante, questo strappo di Della Valle con i dissidenti su tutti Gilardino, perché è chiaro che la proprietà non ha gradito in questo caso le prese di posizione di alcune stelle. Vi farò sentire anche che cosa ha detto oggi a Sky Sport Ernesto Bronzetti, che è il consulente di mercato del Real Madrid, che è colui senza il quale non si muove foglia nei rapporti tra Italia e Spagna ad ogni livello. Si parla di De Rossi, secondo quotidiani spagnoli richiesto dal Real Madrid a suon di denaro, e Bronzetti già ve lo dico smentisce, ma si parla anche di José Mourinho. Prima però gli ascoltatori. Marco da Caserta, buonasera. Marco? Sì, pronto? Buonasera. Pronto, buonasera. Niente, praticamente no, volevo parlare praticamente del fatto che secondo me la lite, diciamo, tra virgolette, tra Berlusconi e Leonardo dipende dal fatto che Berlusconi pretende ancora di fare bella figura sempre e comunque a prescindere, perché il Milan o comunque l'età lo ha, diciamo, un po' rimbambito, diciamo. Perché praticamente con questa squadra rimbambito non credo che con questa squadra tu, da persona sì. intelligente quale è sempre stata, sì. sai anche tu dove puoi arrivare, sì. non puoi dire a Leonardo noi siamo comunque il Milan, non esiste che perdiamo 4-0 col Manchester, per dirti. Invece con questa squadra dovrebbe essere anche lui consapevole che ci può stare, e quindi Leonardo che dice io non solo che ho accettato un ruolo e ho abbracciato il progetto della società, che ora poi mi si venga a dire che addirittura non sono stato all'altezza, comunque ho fatto poco, quando invece un terzo posto con questa squadra è assolutamente al di là delle più nostre previsioni. Quindi cioè, Leonardo giustamente dice mi faccio la parte. Cioè. Sì, guardi, io le leggo, vorrei leggerle cosa ha scritto oggi Mario Sconcerti su Corriere della Sera, magari l'ha letto, magari qualcuno no, e allora lo faccio io nel suo corsivo. Tutto questo Milan, scrive Sconcerti, è stata una bugia, ma nessuno poteva dirlo, anzi bisognava credere il contrario. Questo gli ha dato a Leonardo prima la forza di tornare libero, di costruire un progetto come sentiva. Poi via via che la fiamma faceva fatica a riscaldare, è rimasto schiacciato dalle pressioni del vertice e dalla sua stessa impossibilità a gestirle. Si è sentito vittima e inutile, un doppio danno che lo ha travolto. Queste le parole che condivido e sposo di Mario Sconcerti. Questo Milan è stata una bugia, perché non è una squadra competitiva per il vertice, né italiano né tantomeno europeo, però bisognava dire il contrario. E fino a un certo punto, grazie al lavoro di Leonardo, grazie anche a una serie di concomitanze, circostanze, coincidenze, quelle stesse che hanno permesso alla Roma di essere ancora lì oggi, il primo maggio a pensare, a sognare a questo punto lo scudetto, ebbene tutto questo ha legittimato quella che era tutto sommato una bugia. Questo Milan non è competitivo per vincere lo scudetto, men che meno per vincere la Coppa dei Campioni. Si può dire il contrario, ma è difficile credere realisticamente nel contrario, e il futuro dice che l'anno prossimo il Milan sarà grosso modo lo stesso, perché la proprietà non è disposta, chiaramente l'ha detto, è stato detto in più modi, a intervenire in maniera, a differenza di quanto avviene alla Juventus, consistente sul mercato, e dunque il Milan sarà questo stesso grosso modo o giù di lì. Mario da Milano, buonasera. Buonasera Carlo, è sempre un piacere. Niente, apro e chiudo una piccola parentesi. Io faccio parte di quella, diciamo, schiera di sostenitori del Milan che pensa che Berlusconi ha fatto comodo il Milan fino a quando sì. ha raggiunto i suoi obiettivi. Adesso che li ha raggiunti non gli importa più niente. Quindi siccome sono tifoso milanista, volevo aprire e chiudere questa piccola parentesi, perché ho visto che il discorso era quello di prima. Io volevo fare volevo spendere una parola per il discorso dell'Inter in finale sì. di Coppa. Sì. Io ho notato nel cammino, diciamo, dell'Inter in Champions League un'interessante analogia fra l'Inter e una nazionale a noi cara. Cammino nel girone eliminatorio al limite del pietoso, poi due vittorie contro le squadre più forti, poi una formalità. Sì. E poi in finale una squadra tedesca. Io vado a giocarmi sì. il 3-1 alla SNAI, che dice? Che non è una brutta idea. Sì, l'analogia ci può stare. L'analogia è senz'altro curiosa. Io ne noto un'altra invece, che insomma, che mi fa pensare come Mourinho sia uno che studia sul serio le partite. A me è capitato di vedere il Rubin Kazan a novembre mettere in difficoltà il Barcellona, che non era certamente questo Barcellona, con le stesse armi che ha usato ieri sera l'Inter. Partita che si gioca in casa del Rubin Kazan, che gioca grosso modo tatticamente allo stesso modo dell'Inter. E il Barcellona in una partita tutt'altro che banale, perché con quello 0-0 finì sull'orlo dell'eliminazione. Ebbene, l'analogia ci sta anche in questo caso. Certamente l'Inter è diventata una grande squadra, è diventata una grande squadra a livello europeo, eliminando il Chelsea in quel doppio confronto. Lì ha acquistato consapevolezza, autostima, autofiducia. Lì si è sentita davvero per la prima volta una grande squadra europea. E dunque questa, ovviamente tolta di mezzo, sbrigata la formalità CSKA Mosca, poi è andata a giocarsi con il Barcellona queste due partite, per molti aspetti, ripeto, memorabili. Poi se vogliamo giocarci tre uno in finale, facciamo pure. La finale fa storia a sé. Certo, io sono convinto che a quella finale l'Inter arrivi con il vestito bello e pesante di favorita d'obbligo, perché se una squadra elimina Chelsea e Barcellona è la favorita per la vittoria finale. Non mi sembra una squadra che possa andare in crisi di nervi. Certamente il Bayern è un avversario serio, però è un avversario che avrà in tribuna una delle sue due stelle, e cioè Frank Ribéry, come sapete, è squalificato. Dunque i segni e i segnali per quella giocata alla SNAI possono starci tutti quanti. Grazie Mario. 800240024, vostro numero verde. Maurizio da Milazzo, buongiorno. Buongiorno. Io sono un tifoso milanista e ho telefonato per il fatto del problema dell'allenatore. Sì. Visto che ormai Leonardo al 101% fine campionato andrà via, il problema ora è trovare il sostituto. Non credo che Filippo Galli potrebbe essere anche il sostituto ideale. Forse Spalletti, magari qualche allenatore. Se diventa anche dalla società, se vuole. Beh, però Maurizio, credo che sia un discorso da fare tutto intero, nel senso che, a parte che Spalletti ha un contratto d'oro adesso a questo punto in Russia, come sappiamo, però lei indica una tipologia di allenatore. Il fatto è che non vai a prendere un allenatore di prima fascia, mettiamola così, e soprattutto un allenatore di prima fascia, vediamo se viene, in una squadra che parte con le premesse che conosciamo, cioè non si investe sul mercato, si fanno degli aggiustamenti alla rosa già esistente. I nomi che circolano per la campagna acquisti del Milan li sappiamo, no? Yepes, che andrà a prendere il posto di Favalli, certamente un giocatore che ha fatto una grande stagione ma molto in là con gli anni, non un prospetto. Circola il nome di Mexès in uscita dalla Roma, Mexès che ha perso il posto da titolare. Nomi sono questi, insomma, si parla addirittura di una possibile richiamata alle armi di Beckham una volta che avrà sistemato i suoi problemi fisici molto gravi. Insomma, il Milan dell'anno prossimo sarà questo stesso. Voglio vedere cosa succede piuttosto in estate sul mercato in uscita, perché vediamo se Pato sarà ancora in questa squadra l'anno prossimo. Mi sembra che la direzione sia questa. Dunque la scelta non può che cadere su un allenatore di famiglia, e Filippo Galli ha tutte queste caratteristiche, su un allenatore giovane, su un allenatore che, come Leonardo all'inizio della stagione, non aveva moltissimo da perdere. Credo che la direzione sia questa e sarei sorpreso del contrario. Capitolo messaggi, ne stavo leggendo qualcuno. 349-238-6666. Valentino da Lecce domanda: ma lei piacciono quelli come Mourinho e non quelli come Leonardo, o sbaglio? Ma si sbaglia, Valentino. A me piace moltissimo Mourinho, lo ritengo un grandissimo allenatore, un personaggio che a me piace perché per mille motivi. Se devo scegliere, preferisco Leonardo. Leonardo è uno che, da giocatore prima, da dirigente poi, da allenatore, come persona mi ispira una simpatia naturale, spontanea. Lo ritengo una persona di un'intelligenza rara, forse unica nel mondo del calcio. È stato un dirigente formidabile, cui il Milan deve l'ingaggio di grandissimi campioni. Inutile fare i nomi, tutti i brasiliani che sono arrivati negli ultimi anni in rossonero, ha fatto un lavoro nell'ombra straordinario. Quest'anno, al suo primo allenatore, lui che allenatore non era e forse magari non sarà neanche più, perché può essere anche stufato, no, di, dopo questa esperienza. Ebbene, lo ritengo una persona straordinaria. Se devo scegliere, mamma, perché scegliere poi? Mi è più simpatico Leonardo, però Mourinho è un, ripeto, un grandissimo allenatore e un personaggio che personalmente non mi dà affatto fastidio, anzi il contrario. C'è anche chi scrive: ma perché si è parlato così tanto, Davide, invia questa domanda, si è parlato così tanto di Lazio-Inter ritenendo normale e doverosa la sconfitta del Parma? Non la ritengo normale e doverosa, caro Davide, la sconfitta del Parma, che tra una ventina di minuti va in campo. Però è questione anche qui di motivazioni, no? Di campanile, di tante cose messe insieme. Il Parma non ha più particolari stimoli di classifica, la Roma invece sì, per non avere rimpianti, come scrive un altro ascoltatore, deve vincere tutte e tre e poi fare i conti, magari provando a vincere anche la quarta, cioè la finale di Coppa Italia di mercoledì. Qualche rapidissimo cenno di cronaca. Innanzitutto il tennis, perché sto guardando mentre vi parlo la finale degli internazionali di la semifinale, scusate, degli internazionali di Roma. Ferrer già in finale ha battuto Verdasco e ora c'è Nadal che ha vinto il primo set con il talentuoso pazzeriello playboy tennista Gulbis, vera rivelazione di questa internazionale. Bene, Nadal ha vinto 6-4 primo set, Gulbis sta vincendo 3-1 e servizio la seconda partita. Cronaca di oggi dice anche che Valentino Rossi è solo quarto in Spagna a Jerez de la Frontera, su un circuito che gradisce in maniera particolare, ma quella spalla che fa male. Davanti ci sono gli spagnoli, domani saranno gli spagnoli al via, Pedrosa in pole position e poi Lorenzo quarto tempo invece scusate per Valentino Rossi. La cronaca ci porta anche in Serie B, dove sono appena finite le partite senza grandi sorprese in realtà, se non la sconfitta del Cittadella a Modena 2-1. Poi Crotone batte Triestina 2-0, il Cesena vince 2-0 a Frosinone, il Lecce in rimonta, stava perdendo 1-0 il Lecce, gol di Bombardini dopo 20 minuti con l'Albino Leffe in casa. Poi ha ribaltato il punteggio con Marilunga allo scadere del primo tempo e Corvia al 13° della ripresa. Padova-Sassuolo 1-1, Piacenza-Vicenza 1-1, l'Ascoli vince 2-1 anche qui in rimonta con doppietta di Antenucci dopo il gol di Brienza a Reggio Calabria. Il Mantova in gravissime difficoltà economiche, non può non vincere per la verità sul campo di una Salernitana già da tempo spacciata retrocessa. E il Torino batte 2-0 il Gallipoli, gol di Salgado e Rubin nel primo tempo. In classifica Lecce 70, Cesena e Sassuolo 62 punti, con 60 punti ci sono Cittadella e Brescia, Brescia che però giocherà il posticipo di lunedì ad Empoli. Quindi Torino, Grosseto 58, Crotone 56, Empoli 55 e via via tutte le altre. Questo per quanto riguarda la cronaca. Per quanto riguarda invece le anticipazioni, saluto e ringrazio Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Se non ho visto male, se non ho capito male, gioca Totti tra 24 minuti a Parma. Hai visto bene, tra l'altro è una decisione che Ranieri sembra aver preso in extremis, perché fino alla riunione tecnica che la Roma ha tenuto alle 16 era titolare Toni con Totti in panchina e tra l'altro stante il forfè all'ultimo minuto di Pizarro, un forfè precauzionale per evitare di perderlo poi mercoledì nella finale di Coppa Italia, al posto di Pizarro avrebbe dovuto giocare Brighi. Poi in realtà e nelle ultime due ore è cambiato tutto e la Roma di Parma giocherà con Perrotta al fianco di De Rossi nella coppia di mediana, con Taddei nei tre insieme a Vucinic e Menez e con Totti in attacco, quindi con un tridente senza la coppia che tanto ha fatto discutere, Toni Totti, ma non il tridente della rimonta, cioè quello con Totti fuori e con Toni titolare. Gioca Totti, a questo punto è presumibile che possa giocare anche la finale di Coppa mercoledì, diciamo che da questo punto di vista è un'indicazione abbastanza precisa da parte di Ranieri. Dietro gioca Juan al posto di Mexes, che alla vigilia era dato titolare, invece gioca Juan con Burdisso coppia centrale. Nel Parma qualche novità? No, nel Parma non ci sono novità, anche perché in realtà la lista degli assenti è lunghissima, ci sono gli squalificati Paci Zaccardo, ci sono Paloschi, Morrone e Zenoni che sono indisponibili, giocano Bocino e Biabiani davanti, poi c'è il centrocampo a 5 con Zemaili, Galloppa, Vagliani, Jimenez e Antonelli, dietro giocano Lucarelli, Della Fiore e Castellini, c'è Mirante in porta, ci sono tanti problemi, c'è la necessità di riuscire a chiudere bene questa stagione, anche se gli obiettivi oramai sono sinceramente abbastanza abbastanza lontani, anche quella dell'Europa League, però insomma questa sera al Parma si chiede soprattutto una prestazione di dignità per evitare, certo, di influire in maniera negativa sulla lotta a scudetto. Certamente, ma sentiamo, già che ci siamo, Ranieri, cosa ha detto ieri alla vigilia di questa partita. C'è la doppia faccia, no? La serenità di aver raggiunto quello che era nelle loro ambizioni, per cui potrebbe essere un'arma a doppio taglio per loro: o giocano meglio o giocano peggio. Tatticamente le sappiamo, le squadre di Guidolin pressano, si chiudono e ripartono sempre in contropiedi, manovrati, rapidi, veloci, per cui queste sono le difficoltà che domani avremo. Ci sarà caldo, per cui dovremo essere molto intelligenti, determinati, per far sì che alla fine il risultato ci sorrida. Questo è ciò che ha detto Ranieri sul Parma, 8.000 romanisti al Tardini oggi. Già che ci siamo, Giovanni, una finale scudetto divisa in due tempi e lunga tre partite, no? Facciamo subito un salto a domani sera, al posticipo che chiude peraltro la stagione delle partite serali, cioè Lazio-Inter. Si è fatto un gran parlare sull'atteggiamento della Lazio in questa gara, e credo ci sia ancora un dubbio, no, per lei, importante, legato a Floccari. Sì, c'è un dubbio importante. In realtà la Lazio ha chiuso da pochi minuti il suo allenamento di rifinitura e il dubbio pare essere diventato un altro, nel senso che Rei ha provato Floccari tra i titolari, quindi Floccari è recuperato, questo in parte era già stato annunciato. La sorpresa è che l'ha provato insieme a Zárate, e quindi stando alle indicazioni di questo ultimo allenamento dovrebbe partire dalla panchina Capitan Rocchi, e questa sarebbe una sorpresa. Poi per il resto nessun'altra novità, perché si sono allenati regolarmente e sono stati provati tra i titolari tutti i big della Lazio, Lazio che dunque sarà con la sua formazione migliore. Manca ovviamente Ledesma, che sconta la seconda giornata di squalifica, ma ci saranno Lichtsteiner, Baroni e Kolarov, dietro ci saranno Radu, Diaz e Biava. Dunque l'indicazione del sabato da Floccari e Zárate, coppia titolare con Rocchi in panchina. Diciamo che la notizia è che certamente Floccari è recuperato, poi ci sono 24 ore di tempo, in realtà il posticipo permette di fare ancora una piccola rifinitura nella giornata di domenica, vedremo se cambierà qualcosa. Lazio che si è allenata davanti a pochissimi tifosi, del resto Rei aveva fatto tenere chiusi i cancelli per tutta la settimana proprio per cercare di allontanare il più possibile la squadra dalle pressioni dei tifosi che sono divisi tra la necessità di punti salvezza e la volontà di non fare un piacere alla Roma. Rei ha tenuto squadra e tifosi separati, oggi i cancelli erano aperti ma non c'era quasi nessuno, a differenza di quanto accaduto invece da Piano Gentile. Ecco, andiamo da Piano Gentile, Giovanni. Mi sembra che solo Santon non sia partito per Roma. Sì, 23 convocati, soltanto Santon non è partito. Questa oramai pare essere la scelta definitiva di Mourinho. Tra l'altro Mourinho oggi ha aperto ancora i cancelli, in 3.000 hanno assistito agli allenamenti. Il portoghese, dopo aver fatto il sergente di ferro per un anno, pare aver deciso di distillare tutto quanto può distillare, sia dall'ambiente che dal gruppo, per cercare di incentivare i suoi a scavalcare prove che sono via via sempre più alte. Magari la Lazio è meno alto come ostacolo rispetto al Barcellona, sì, anche senza magari, però evidentemente è una partita difficilissima da affrontare quattro giorni dopo la battaglia del Camp Nou, quantomeno dal punto di vista fisico, ma non solo. Quindi a Roma partono tra pochi minuti in 23, perché manca solo Santona, ad esempio, e tra i convocati c'è Pandev. Ovviamente è in dubbio, perché Pandev si è dovuto arrendere pochi minuti prima della gara con il Barcellona, e per lui si prospetta un rientro comunque graduale, anche per non metterne a rischio lo sprint finale della stagione. E più che Balotelli, che oggi è stato applaudito, molto applaudito dai tifosi, con addirittura uno striscione per lui dei cori, più che Balotelli possibile però un impiego dal primo minuto di Quaresma, con Stankovic spostato più avanti per dare riposo a Sneijder, Milito ed Eto'o in campo, e dietro Thiago Motta con Cambiasso. In fondo Thiago Motta tra i giocatori dell'Inter è certamente il meno stanco, essendo stato espulso dopo 27 minuti e di fatto avendo davanti la prospettiva di non giocare la finale di Champions, dunque una stagione che si chiude nelle prossime tre partite. Sì. Ovviamente bocca e cucita da Piano Gentile, ma questa oramai è diventata una consuetudine, quindi è difficile interpretare i pensieri di Mourinho, che in questo finale di stagione ha sempre cambiato molto poco, però ha sempre cambiato a blocchi. Non si capisce bene cosa voglia fare domani, perché dopo Barcellona l'Inter in realtà non si è mai veramente allenata, non ha mai fatto vere e proprie sedute tattiche, ma soltanto sedute di scarico e di recupero. Diciamo che Samuel e Lucio come coppia di difesa sono favoriti su Materazzi Cordova, ma del resto l'Inter, che poi resterà a Roma per 5 giorni prima della finale di Coppa Italia, dovrà gestirsi le energie davvero con il contagocce, perché è un finale di stagione difficilissimo, quindi sì, qualcosa certamente cambierà. Beh, certamente una centrifuga. Adesso, mentre Gulbis si è portato sul 4-1 con Nadal, che va a servire per restare in questa seconda partita dopo aver vinto il primo set, mentre accade questo, e poi vi faccio un resoconto. Come dicevo prima, Fiorentina-Milan parte con questi umori, con questi rumori. Leonardo. Io penso solo a queste 3 partite. Penso al nostro obiettivo. Io non lo so se il presidente ha detto, non ha detto, sono uscite ancora delle voci riferite da persone, ma a prescindere di quello che ha detto o non ha detto, io non posso negare che il nostro rapporto è un rapporto difficile. È un rapporto difficile. Siamo molto diversi e questo non credo che sia una novità. Visioni diverse, sono cose che io rispetto tutti, ci mancherebbe altro, ma siamo diversi. E quello è vero, forse siamo incompatibili, è una questione forse anche di stile, ognuno ha il suo. Forse in questi ruoli che ci sono oggi, forse c'è un'incompatibilità di carattere. Questo è Leonardo. Sull'altro fronte, dall'altra parte del campo, la Fiorentina di Andrea Della Valle. Purtroppo anche la Coppa UEFA ormai è un miraggio, è impossibile da raggiungerlo, e quindi chiaramente qualcuno pensava già di essere in vacanza o qualcuno ha mollato. Ecco, queste cose qui non devono più succedere, perlomeno fino a quando ci sarà questa proprietà qui a Firenze, e loro lo sanno bene, perché se è così, allora prima di ricominciare la prossima stagione dovremo essere tutti molto più chiari e soprattutto guardandoci negli occhi. Cioè, c'è da capire chi crede in questo progetto, perché qui c'è un progetto, che se ne dica ultimamente, che dura da tanti anni, c'è un progetto ben serio, e anche i giocatori che sono qui, quelli che rimangono, spero tanti, e anche quelli che arriveranno, devono prima di tutto capire che si lotta certo per lo stipendio, ma ci deve essere uno spirito forte come c'è sempre stato. Primo maggio, il cielo è grigio su Milano, ma fa un gran caldo, caro Giovanni Capuano. Sì, sì, poi Leonardo, insomma, si è messo sulla strada di qualcun altro di più importante e famoso nelle ultime 2 settimane. Credo che alla fine l'esito sarà lo stesso. Quella di stasera è una partita fondamentale per il Milan. Basta dare un'occhiata alla classifica e a quello che rimane nel calendario. Il terzo del posto del Milan è quasi blindato. Il problema sta in quel quasi, perché il Milan è una squadra che nelle ultime giornate praticamente si è fermata, al contrario, alle spalle alla Sampdoria che corre. Adesso è soltanto a 4 lunghezze, domani gioca in casa contro il Livorno, il Milan poi ha la trasferta a Genova contro il Genoa e poi chiude in casa contro una Juventus che non si sa a quel punto se avrà bisogno o meno sì di fare la partita della vita. Insomma, la verità, senza girarci troppo intorno, è che il Milan questa sera deve vincere per evitarsi un finale di stagione al cardiopalma, che sarebbe incredibile considerato che non più tardi di un mese fa il Milan era alla vigilia del possibile sorpasso all'Inter. Per quanto riguarda la formazione, per la prima volta dopo qualche settimana Leonardo non è in emergenza, perché tornano disponibili Ambrosini, Bonera, Flamini, rientra anche Borriello, insomma comincia ad avere a disposizione una rosa che ha una certa profondità. C'è un dubbio che non è ancora stato sciolto, quello tra Seedorf e Huntelaar. Alla fine in realtà potrebbero giocare tutti e due e il sacrificato potrebbe essere Flamini. Il Milan potrebbe quindi giocare con il tridente Borriello, Huntelaar, Ronaldinho e con Seedorf insieme a Pirlo e Ambrosini sulla linea di centrocampo. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, l'indiscrezione dal ritiro della Fiorentina a Milano è che Vargas non ce la fa e che a questo punto Prandelli abbia deciso di cambiare anche il modulo, di giocare con il 4-3-1-2 con Jovetic e Gilardino punte, con Marchionni a fare il trequartista e inserendo Cristiano Zanetti a centrocampo con Montolivo e Bolatti per rendere un po' più pesante la linea di mediana della Viola, che ha dei grossissimi problemi perché l'elenco degli assenti è lunghissimo, a parte Mutu, mancano Santana, Comotto, Pasquale, Gamberini e Felipe, poi c'è appunto Vargas e le cui condizioni sono tutt'altro che eccellenti. Certo, Giovanni, per chiudere, ieri Chiellini ha detto ma quarto posto ormai non ci arriviamo più, dobbiamo difendere l'Europa League, anche perché fare i preliminari con un eventuale quarto posto metterebbe a rischio anche la prossima stagione. Oggi Zaccheroni invece ha detto no, ci crediamo ancora, adesso vinciamo 3 partite poi facciamo i conti. Certamente saranno le sue ultime 3 sulla panchina della Juventus, la Juventus di domani a Catania. Allora, la Juventus di domani a Catania ha ancora dubbio Diego, che si è allenato, ma il dubbio sulla sua presenza non è sciolto, è diciamo quasi certamente in campo. L'alternativa eventuale è Candreva. Nella lista dei convocati c'è Camoranesi, che era dato invece per assente, non ci saranno Giovinco, Trezeguet, Grighera e Sissoko. Torna Cáceres, che giocherà sulle linee di difesa insieme a Grosso, Chiellini e Cannavaro. Davanti certa la partenza dal primo minuto di Iaquinta, che in questo momento è l'attaccante che sta meglio della Juventus. C'è un ballottaggio a Mauri Del Piero per fare da spalla, favorito a Mauri. Per quanto riguarda Del Piero, Zaccheroni ha detto che non c'è nessuno strascico del piccolo battibecco in campo avuto settimana scorsa con il capitano. Ha detto: ci siamo chiariti, semplicemente dicevamo tutti e due la stessa cosa, ma lì per lì in campo non eravamo riusciti ad intenderci. Magari diciamo diceva la stessa cosa in modo un po' diverso, Ah beh, non c'è dubbio, ma del resto la convivenza di Del Piero con gli allenatori della Juventus è una convivenza difficile. Carlo, se sì, posso rubarti solo un secondo, tornando alle difficoltà di gestione delle energie, oggi è arrivata una brutta notizia per l'Inter, perché il Bayern di fatto ha vinto il titolo tedesco, in realtà non ancora aritmeticamente, ma per perderlo dovrebbe perdere domenica prossima, sabato prossimo, e rispetto allo Schalke perdere 17 gol di vantaggio nella differenza reti, quindi siamo veramente nel campo dell'irrealtà. Quindi il Bayern campione significa 21 giorni per preparare la finale di Madrid, un privilegio che credo Mourinho difficilmente avrà da qui al 22 maggio. Sì, credo anch'io, poi vediamo stasera alle 20 come è andata Parma-Roma. Grazie Giovanni. Grazie a te. A prestissimo, grazie a Giovanni Capuano. Io prima di farvi sentire invece cosa ha detto Bronzetti oggi a proposito delle voci che circolano in Spagna su De Rossi, ma soprattutto di Mourinho, voglio tornare agli ascoltatori. Gianni da Genova e Stefano dalla provincia di Imperia. Mentre Nadal va a servire, ma 5-2 per Gulbis nel secondo set, parlando di tennis. Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Senta, io sono un milanista incallito da tantissimi anni. E penso che a questo punto noi milanisti purtroppo abbiamo raggiunto la pace dei sensi, anche perché si contrappone l'Inter che vince continuamente, continua a comprare e investire, noi invece di prendere Marotta come direttore tecnico, a mandare via quel portasfiga di Braida, che solo a vederlo mi vengono i brividi, e comprare giocatori come Cassano, come Socrates, nemmeno spendere tanto poi. Gianni, io capisco sul sfogo, con Braida qualcosina al Milan ha vinto, un po' per uno insomma, no? A Milano? Sì, ma non così facendo rischiamo di perdere fette di tifosi, non so se si rende conto la società. Ma penso che due conti li abbiano anche fatti, perché non credo che lei sia l'unico milanista scontento d'Italia, anzi mi risulta che il partito sia maggioritario, che dice? Sì, ma volevo soltanto dire questo, che noi forse siamo troppo innamorati della nostra squadra, questo è vero. Però anche i matrimoni poi prima o dopo finiscono, quindi è sempre meglio cercare di correre ai ripari prima che tutto vada a finire male, anche perché guardando anche il numero degli abbonati è crollato completamente rispetto già all'anno scorso, quindi io ero un vecchio abbonato, adesso vabbè con Sky non vado più a Milano, io addirittura una volta ero partito dalla Calabria per andare a vedere un Milan Real Madrid, si immagini un po', eravamo in quattro, ma era un'epoca che adesso era un momento storico che adesso tocca agli interisti, quindi sono gli interisti a fare queste follie calcistiche in questo momento. Quanto al Milan, mi pare che le strategie siano molto chiare. Si va avanti così. Cioè si va avanti con una squadra che non si può dire sia competitiva su alcun fronte. Sarei molto sorpreso di un'inversione di tendenza. Sapete che si è parlato moltissimo, no, di Balotelli al Milan, questa simpatia di Balotelli verso il Milan, a parte il fatto che non lo reputo un affare possibile dal punto di vista proprio dei sentimenti, non credo che, come molti pensano, che Moratti possa lasciare andare Balotelli al Milan, ma è un affare che non è fattibile, soprattutto per questioni economiche. Sarei estremamente sorpreso se il Milan prendesse Balotelli e quindi decidesse di invertire completamente la rotta innestata l'anno scorso, perché per prendere Balotelli è chiaro che ci vogliono dei bei soldini, che poi possono essere 30, 35, 40 milioni di euro, grosso modo i soldi sono quelli, no? Quindi sarei estremamente sorpreso se questo affare andasse in porto, perché sarebbero tutte quelle che stiamo facendo chiacchiere al vento. Non credo sarà così però. Stefano, provincia di Imperia, buonasera. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere una considerazione sul nuovo procuratore di Balotelli, no? Che noi ben conosciamo come interisti, intendo dire Raiola. Sì. Volevo chiedere a lei, che è un esperto di calcio, non pensa che un procuratore come questo possa definitivamente rovinare il giocatore? Mi spiego molto velocemente. In questi ultimi giorni, appena preso la procura, un giorno sì e un giorno l'altro non ha fatto altro che mettere benzina sul fuoco in un rapporto già delicato. E quindi voglio dire, questo ragazzo in fin dei conti a 19 anni, con tutti i problemi che ha avuto, con tutte le difficoltà che ha dovuto passare, adesso anche se sta bene, però non vuol dire che dal punto di vista psicologico possa avere dei problemi, con un procuratore come questo che ogni giorno aizza la società, l'allenatore contro, come può uscirne fuori da questo imbuto? Stefano, io le rispondo ricordandole le parole di Guardiola. Le parole di Guardiola il giorno dopo l'esclusione di Ibrahimovic e quando, come ci ricordiamo, Raiola ebbe a dire, era procuratore anche di Ibrahimovic, come sanno tutti, bene, Raiola disse, ho parlato con Ibra, non è così contento in questo momento, e disse altre due o tre cosine poco simpatiche nei confronti del Barcellona. Il giorno dopo Guardiola in conferenza stampa si limitò molto signorilmente a dire: quanto a Ibrahimovic, stia attento a quello che dichiarano i suoi dipendenti. Disse soltanto questo. Bastano poche parole per chiarire la situazione. Quindi credo potrebbe valere anche per l'Inter, per Mourinho, nei confronti di Balotelli. Adesso però voglio farvi sentire, visto che siamo in argomento, anche un'ultima voce di oggi, che è quella di Ernesto Bronzetti, intervenuto telefonicamente a Sky, sulla voce dei 50 milioni che Real Madrid sarebbe pronto a scucire per De Rossi, ma anche e soprattutto su quell'altra voce relativa al matrimonio possibile tra Mourinho e Real Madrid. Bronzetti. Le solite stupidaggini che scrivono i giornali: mai fatto un'offerta, mai chiesto De Rossi. Posso garantirlo al 1000%, non al 100%. Sono stato adesso due giorni con Perez. Mai parlato di De Rossi, è un giocatore che piace indubbiamente perché è uno dei più forti centrocampisti al mondo in assoluto, ma in quel ruolo ha già Caco, Xabi Alonso, Guti, Diarra, l'altro Diarra. Il Real Madrid va solo su due difensori, un terzino sinistro e basta. Mi risulta è Mourinho che pare vorrebbe lasciare l'Italia, ma non so, che ci sono stati dei contatti anche l'anno scorso, ma ripeto, da parte di Mourinho così, ma non era già stato scelto Pellegrini da tempo, non assolutamente. Su Mourinho non metto la mano nel fuoco perché è un altro discorso che non seguo io, ma segue direttamente la società. Però non credo, se vince il campionato può vincerlo il Real Madrid, che io sappia rimane Pellegrini. Se va via va al Real Madrid, se va via, altrimenti non credo che Moratti lo lasci scappare così facilmente. C'è ancora due anni di contratto, se non sbaglio, a meno che non abbia clausole di rescissione, ma io questo non posso certo saperlo. Sembra che nel parlare di Mourinho i toni di Bronzetti si facciano leggermente più imbarazzati. Che dite? Magari ne parliamo domani dalle 5 alle 7 insieme, come ogni domenica. Di nuovo buona serata a tutti.